Renelectron è attiva sul mercato con due prodotti che vogliamo oggi sottolineare. Partiamo dalla serra fotovoltaica, ingegnere Resu. Sì, la serra fotovoltaica parte da un nostro approccio in cui il fotovoltaico deve essere funzionale agli spazi che occupa. Cosa vuol dire questo? Avendo il fotovoltaico il grande vantaggio di poter essere integrato all'architettura, potersi adattare bene agli spazi e quindi, come posso dire, non invaderlo completamente, creare delle libertà. E la serra fotovoltaica va in quella direzione, cioè invece che fare un impianto a terra in cui il terreno, la terra possa inaridirsi e quindi il processo di desertificazione in Sicilia eccetera, noi creiamo delle serre in cui la cui copertura è fotovoltaico integrato, che ottiene anche il massimo incentivo, quindi va anche aiuta anche il ritorno economico dell'investimento, ma soprattutto la serra all'interno è coltivabile, perché essendo il pannello semitrasparente permette tutto un range di coltivazioni veramente, veramente eccezionale. E insomma, noi crediamo fortemente in questo prodotto e crediamo fortemente in un fotovoltaico che sia il più possibile agile, nel senso che riesca a soddisfare non soltanto il fabbisogno energetico, ma anche quello, ma anche una serie di altri requisiti, un po' come la nostra pensilina fotovoltaica. Ecco, infatti, quindi spostiamoci dalla campagna alla città e non solo. Voi avete inventato anche la pensilina fotovoltaica. Sì, va sempre in quest'ordine di idee, nel senso che, per esempio, c'è la necessità di fare delle pensiline per i parcheggi, no? Perché fare delle pensiline tradizionali e non coprire queste pensiline invece con dei pannelli fotovoltaici? E quindi andare incontro a questo fabbisogno energetico che nel nostro paese, come in tutto il mondo, è sempre crescente, quindi con un inquinamento che è direttamente proporzionale allo stesso, e non coprire questi spazi funzionali con dei pannelli fotovoltaici. Quindi sempre in quest'ottica di utilizzare il fotovoltaico funzionale all'architettura, quindi viverlo integralmente e non fargli invadere degli spazi che invece non sono suoi, perché il fotovoltaico, non dimentichiamo, ha un grande vantaggio rispetto a eolico o altre tecnologie. Il fotovoltaico può essere funzionale allo spazio in cui noi viviamo, mentre altre energie lo dominano completamente, quindi diciamo perdiamo l'agilità di queste tecnologie. Perché l'eolico, per esempio, vabbè, tutti noi lo sappiamo, è molto impattante, e ha un impatto visivo e non solo, che a volte crea una cacofonia verso, per esempio, Partito Verde, eccetera, esatto, che si oppone. Il fotovoltaico invece no, perché noi facciamo un palazzetto e possiamo integrare i pannelli, facciamo un centro commerciale e possiamo integrare i pannelli, è un messaggio. E poi l'ultima cosa che voglio dire, se no annoiamo tutti, è che il fotovoltaico ha il grande vantaggio che rende tutti noi compartecipi a quest'impresa che è la terza rivoluzione industriale, quella delle rinnovabili. E il fotovoltaico è la vera tecnologia in questo. Perché? Perché chi anche ha una casa può fare una villetta, può fare un 3 kW. Invece tutte le altre tecnologie non ci consentono questo, perché l'eolico lo può fare solo chi ha o il vento o comunque un grande campo, eccetera eccetera. Fotovoltaico invece lo può fare chiunque, è democratico, è veramente la vera tecnologia democratica secondo noi, e noi ci crediamo fortemente.